Dopo la grande giornata mobilizzazione nazionale del 28 ottobre, la giornata di digiuno, siamo cresciuti, stiamo crescendo, abbiamo conquistato tra virgolette altre regioni, si è aggiunta la Lombardia con oltre 3.000 partecipanti. Il 2 ottobre, esatto, saremo davanti ai maggiori ospedali la sera a leggere i nomi degli oltre 1.650 sanitari uccisi dal 7 ottobre 2023, per ricordarli, per chiedere la fine del genocidio e per dimostrare che i sanitari non devono essere toccati, le cure devono essere garantite. Infatti uno degli aspetti più tragici di questo conflitto è che non vengono risparmiate nemmeno le persone che curano, che assistono. Non solo non vengono risparmiate, voi sapete meglio di me, giornalisti e sanitari hanno una probabilità di essere uccisi a Gaza maggiore di quella del resto della popolazione, proprio perché è un attacco sistematico alle due, a chi può informare e a chi può portare cura. Solo ieri è stato colpito alla testa un infermiere mentre era in turno in ospedale da un drone. Tu dicevi appunto la vostra mobilitazione si è allargata, quindi insomma sta crescendo anche la sensibilità? Sta crescendo la sensibilità, sta crescendo la voglia di mettersi in gioco, perché comunque organizzare una manifestazione, dare le comunicazioni a chi di dovere, mobilitare i colleghi richiede un piccolo, però richiede un impegno personale. Sempre più persone chiedono cosa posso fare e questo è il motivo per cui siamo cresciuti. Nel concreto cosa succederà il 2 ottobre? Nel concreto ci si troverà dalle 9 davanti agli ospedali con delle fonti luminose, possono essere fiaccole, cellulari, torce, e ci sarà una piccola introduzione sul motivo della manifestazione. Poi si leggeranno i nomi divisi per regione dei sanitari uccisi. Poi verrà dato spazio circa 3 minuti a chi vorrà insomma condividere una propria riflessione, un messaggio, e poi verso le 10:30 si chiuderà. Ecco. Con l'elenco degli ospedali c'è sul vostro sito? L'elenco c'è sul sito digiuno. Se voi guardate anche sui canali c'è l'elenco di tutti i presidi, viene aggiornato perché ancora ad oggi oggi altri presidi si stanno aggiungendo, quindi sul sito del digiuno trovate tutto, anche sulle pagine Instagram e Facebook.